Capitolo 35. Inizia l'ultimo anno a Redmond. Eccoci qui di nuovo, tutte abbronzate e festanti, come un poderoso uomo per eseguire una gara, disse Phil, sedendosi su una valigia con un sospiro di gioia. Ah, non è splendido vedere di nuovo Patty's Place e la zietta e i gatti? Rusty ha perso un altro pezzo di orecchio, non è vero? Rusty sarebbe il più bel gatto del mondo se non avesse orecchie del tutto, dichiarò lealmente Anna dal suo baule, mentre Rusty si contorceva tutto nel suo grembo colto da convulsioni di felicità per darle il benvenuto. Non sei contenta di rivederci, zietta? Domandò Phil. Sì, ma vorrei che metteste ordine tra i bagagli, si lamentò zia Jamesina guardando la confusione di bauli e valigie da cui le ragazze ridenti e chiacchierine erano circondate. Potrete chiacchierare con altrettanto gusto più tardi. Prima il lavoro e poi il divertimento. Era questo il mio motto quando ero ragazza. Oh, la nostra generazione ha soltanto rovesciato quel motto, zietta. Il nostro adagio è prima divertiti e poi dacci dentro. Lavori molto meglio se prima ti sei fatto un po' di buon sangue. Tu stai per sposare un ministro della Chiesa, disse zia Jensina, sollevando Joseph e il lavoro a maglia e rassegnandosi nel contempo all'inevitabile con quella grazia accattivante che faceva di lei la regina delle madri. Un'espressione come darci dentro la devi cancellare dal tuo vocabolario. Perché mai? Gemette Phil. Non capisco perché la moglie di un pastore dovrebbe parlare soltanto in punta di forchetta. Non me lo sogno nemmeno. Tutti quanti in Patterson Street parlano in slang e se non lo faccio anch'io penseranno che ho la puzza sotto il naso. Hai informato la tua famiglia? Chiese Priscilla, dando da mangiare a Sarah Kate bocconi prelevati dal suo pranzo al sacco. Phil annuì. Come l'hanno presa? Oh, mia madre ha fatto tuoni fulmini, ma io sono rimasta ferma come una roccia. Ci pensate, ragazze? Io, Filippa Gordon, ferma come una roccia? Io che non mi sapevo mai decidere? Ma mio padre l'ha presa meglio. Il padre di mio padre era pastore, capite? Per cui gli è rimasto un debole per la tonaca. Quando mia madre si è calmata, le ho portato Joe e tutti e due si sono innamorati di lui. Mia madre però gli ha continuamente lanciato delle frecciate su ciò che aveva sperato per me. Oh, ragazze, il sentiero delle mie vacanze non è stato esattamente cosparso di rose, ma ho stravinto e mi sono tenuta giù, nient'altro importa. Per te, replicò cupa zia Jamesina. E anche per Joe, ritorse Phil, tu lo compatisci sempre, ma perché? Io credo che meriti di essere invidiato, non compatito. Lui prende intelligenza, bellezza e denaro prendendo me. Per fortuna ti conosciamo e sappiamo come parli, rilanciò paziente zia Jamesina. Spero che non ti esprimerai in questo modo di fronte a estranei. Che cosa mai sarebbero indotti a pensare? Oh, io non voglio saperlo. Non voglio vedere me stessa come mi vedono gli altri. Sono sicura che ci starei malissimo la maggior parte delle volte. D'altra parte, non credo che Burns fosse del tutto sincero in quella sua preghiera. Oh, quanto a questo. Sono convinta che tutti quanti preghiamo per cose che in fondo non vogliamo, se solo siamo abbastanza onesti da guardarci dentro, riconobbe candidamente zia Jamesina. So per esperienza che certe preghiere non vanno molto lontano. Io ero solita a pregare quando non mi riusciva di perdonare qualcuno, ma ero perfettamente cosciente che non volevo davvero perdonarlo. Quando finalmente capivo che lo volevo, non avevo bisogno di preghiere per dargli il mio perdono. Non riesco a immaginarti a serbare rancore a lungo, disse Stella. Oh, invece sì, lo facevo. Ma andando avanti con gli anni ti rendi conto che non ha alcun senso serbare rancore. Questo mi ricorda qualcosa, intervenne Anna e raccontò la storia di John e Janet. E adesso parlaci di quella romantica scena a cui hai accennato oscuramente in una delle tue lettere, la incitò Phil. Anna mimò e recitò la proposta di Samuel con grande spirito. Le ragazze si contorsero dalle risate e zia Jamesina sorrise. Non è di buon gusto prendersi gioco dei propri spasimanti, le ammonì con fare severo, ma l'ho sempre fatto anch'io. Parlaci dei tuoi spasimanti, zietta, la lusingò Phil. Devi averne avuto un gran numero. Non collocarli al passato, ritorse zia Gemsina. Li ho ancora? Ci sono tre anziani vedovi a casa che mi fanno gli occhi di triglia da un bel po' di tempo, bambine. Non dovete credere di avere solo voi tutte le storie romantiche del mondo. Oh, vedovi e occhi di triglia non sono granché romantici, zietta. Per questo no, ma nemmeno i giovani sono sempre romantici. Alcuni dei miei adoratori certamente non lo erano. Gli ridevo dietro un mucchio, poveri ragazzi. C'era Jim Elwood, che era sempre immerso in una sorta di sogno a occhi aperti e non dava l'impressione di rendersi conto di quel che gli succedeva intorno. Non si svegliò neppure quando gli dissi di no, e se ne rese conto solo un anno dopo. Quando si sposò, sua moglie cadde dalla slitta su cui ritornavano a casa dalla chiesa e lui non se ne accorse nemmeno. C'era anche Dan Winston, sì, sapeva troppe cose, sapeva tutto di questo mondo e molto anche dell'altro, era in grado di rispondere a qualsiasi domanda, anche se gli chiedevi la data del giudizio universale. Poi, vediamo, c'era Milton Edwards, era molto carino e a me piaceva, ma non l'ho sposato, primo perché gli ci voleva una settimana per capire una battuta di spirito. E secondo, perché non me l'ha mai chiesto. Orazio Rive è stato l'innamorato più interessante che ho avuto. Ma quando raccontava una storia l'arricchiva talmente di particolari che a forza di aggiustatine non capivi più niente. Non ho mai potuto sapere se raccontava bugie o se lasciava semplicemente scorrere la sua immaginazione. E gli altri, zietta? Andate avanti con i bagagli, troncò netto zia Gemsina, facendo balzare loro addosso Joseph, dopo averlo punto per sbaglio con un ago. Gli altri erano troppo carini per riderci su. Voglio rispettare la loro memoria. Ci sono dei fiori per te in camera tua, Anna. Sono arrivati circa un'ora fa. Dopo la prima settimana, le ragazze si dedicarono allo studio con perseveranza e accanimento perché era il loro ultimo anno a Redmond e occorreva una grande costanza per ottenere la laurea a pieni voti. Anna si dedicò alla letteratura inglese, Priscilla alle lettere classiche e Filippa puntò sulla matematica. Talvolta si sentivano stanche, talvolta erano scoraggiate. Talvolta sembrava loro che non ci fosse nulla per cui valesse la pena di lottare. Fu con una sensazione di questo genere che Stella bussò alla cameretta azzurra una piovosa sera di novembre. Anna sedeva sul pavimento nel cerchio di luce della lampada, circondata da una nevicata di fogli manoscritti tutti spiegazzati. Ma che cosa stai facendo? Sto solo riguardando i vecchi scritti del club di scrittura. Avevo bisogno di qualcosa di allegro per tirarmi su di morale. Ho studiato tanto che vedo tutto nero. Così sono venuta qui e ho tirato fuori questa roba dal mio baule. È tutta così intrisa di lacrime e di tragedia che è divertente da morire. Anch'io vedo tutto nero e sono scoraggiata, disse Stella allungandosi sul divano. Mi sembra che non ci sia nulla per cui valga la pena di vivere. E non è un pensiero solo di oggi, ce l'ho in mente da tempo. Qual è lo scopo della vita, Anna? Pensi questo solo perché sei stanca? E poi è colpa del tempo. Una sera piovosa come questa, dopo una giornata di lavoro pesante, butterebbe a terra chiunque. Eccezion fatta per Mark Tapley. Tu sai che vale la pena di vivere. Oh, penso di sì, ma in questo momento non riesco a crederci. Pensa semplicemente a tutte le anime nobili che sono vissute e hanno operato nel mondo, declamò Anna con occhi sognanti. Non vale forse la pena di seguirne l'esempio? Per portare avanti ciò per cui hanno lottato e vinto? E pensa a tutta la gente di valore che c'è adesso sulla faccia della terra. Non ti arride il pensiero che possiamo condividerne il respiro? E che dire poi di tutte le grandi anime che verranno? Non vale la pena di lavorare un poco per aprir loro la strada? Anche un solo gradino del sentiero che loro solcheranno? Oh, la mia mente è d'accordo con te, Anna, ma lo spirito rimane dolorante e sordo. Mi sento sempre come una mela bacata nelle sere di pioggia. Certe notti mi piace la pioggia. Mi piace starmene a letto e sentirla tamburellare sul tetto e picchiettare sui pini. A me piace quando rimane sul tetto, precisò prosaicamente Stella. Ho passato una notte tremenda in una vecchia fattoria l'estate scorsa. Il tetto perdeva e la pioggia mi entrava a secchiate nel letto. Non era affatto poetico. Ho dovuto saltar su nella tenebrosa mezzanotte e mettermi a zampettare intorno per spingere il lettone fuori dalla perdita. Neanche a farlo apposta, era uno di quei macigni di una volta che pesano una tonnellata, poco più, poco meno. Da quel momento ho potuto udire chiaramente il tip-top, tip-top della pioggia sul pavimento finché i miei nervi sono andati in tilt. Non hai idea dello spavento che riesce a procurare un gocciolone di pioggia che si spiaccica sul nudo pavimento. E di notte, poi, è simile al rumore dei passi di un fantasma. Ehi, Anna, perché ridi? Per le nostre storie, per dirla con Phil, ti ammazzano in tutti i sensi perché muoiono tutti. Che eroine abbaglianti le nostre, e come le abbiamo abbigliate, sete, raso, velluti, gioielli, merletti, non indossano mai altro. Eccone qui una di Jane Andrews. La sua eroina dorme avvolta in una bella camicia da notte di seta bianca ricamata di perle e scaramazze. Continua, dai, la incitò Stella. Comincio a pensare che valga la pena di vivere finché uno può farsi delle belle risate. Eccone una che ho scritto io. La mia eroina si sta recando a un ballo circonfusa dai bagliori, dalla testa ai piedi di enormi diamanti, dalla purissima acqua. Ma quale maschia bellezza o quale sconfinata ricchezza attira questa luccicante fanciulla? I sentieri della gloria che la condurranno alla tomba. Oh, non c'era scampo per le nostre eroine. Dovevano venire assassinate o morire con il cuore spezzato. Non avevano scampo. Dai, fammene leggere qualcuna di queste storie. D'accordo. Ecco il mio capolavoro. Nota l'allegria del titolo. Le mie tombe. Ho versato litri di lacrime nello scriverla e le altre ragazze intere botti nel leggerla. La madre di Jane Andrews la sgridò fino a farla tremare, perché le aveva consumato una quantità spropositata di fazzoletti quella settimana. E la storia straziante dei vagabondaggi della moglie di un pastore metodista. L'ho fatto metodista perché era necessario che si spostassero da un posto all'altro. Seppelliva un figlio in ogni posto in cui si trovava a vivere. Ne ebbe 9, e le loro tombe erano disseminate da Terranova a Vancouver. Oh, ho descritto i pargoli, ho narrato a forti tinte come erano i loro numerosi letti di morte e ho fornito ogni dettaglio sulle loro pietre tombali e i loro epitaffi. Volevo ucciderli tutti, tutti e 9, ma giunta all'ottavo avevo ormai esaurito tutta la mia fantasia orrifica, sicché permisi al nonno di vivere, ma ne feci uno storpio senza speranza. Mentre Stella leggeva le mie tombe, sottolineandone i paragrafi tragici con risatine soffocate, Rusty dormiva il giusto sonno di un gatto che era stato sui tetti tutta la notte, acciambellato su un racconto di Jane Andrews che narrava di una bella vergine di 15 anni andata a fare l'infermiera in una colonia di lebbrosi e morta alla fine contagiata da quella disgustosa malattia. Anna lasciò vagare lo sguardo oltre i manoscritti e richiamò alla memoria i vecchi giorni di scuola ad Avonlea, quando le ragazze del club di scrittura lì componevano, sedute all'ombra degli abeti rossi o mollemente sdraiate sulle felci accanto al ruscello. Come si divertivano allora! Leggendo quei racconti provò la stessa allegria di quei giorni e ne rivide lo splendore. Né la gloria che fu della Grecia, né la grandezza che fu di Roma avrebbero potuto creare tanta magia quanto quelle buffe e lacrimose storie del club di scrittura. Tra i manoscritti, Anna ne trovò uno vergato su carta da pacco. Le vennero le lacrime agli occhi dalle risate quando riportò alla memoria le circostanze in cui l'aveva scritto. Era stato il giorno in cui era crollata dal tetto dei Coop nel recinto delle anitre a Tory Road. Anna prima lo guardò, poi prese a leggerlo con attenzione. Era un dialogo tra astri e piselli odorosi, tra le canarie selvatiche, tra i cespugli di lilà e lo spirito guardiano del giardino. Dopo averlo letto, rimase con lo sguardo fisso nel vuoto. Quando Stella se ne fu andata, lisciò con cura il manoscritto spiegazzato. «Credo che lo farò», disse con aria risoluta. Capitolo 36. La visita dei Gardner. Qui c'è una lettera con un francobollo dell'India per te, zia Jamesina, disse Phil. Tre Per Stella, due per Pris, una per una bella busta panciuta per me da Joe. Niente per te, Anna, tranne una comunicazione. Nessuno notò il rossore sulle guance di Anna quando prese la missiva che Phil le aveva porto sbadatamente. Ma qualche minuto più tardi Phil alzò gli occhi su una Anna trasfigurata. Tesoro, che miracolo è avvenuto? Lo Youth Friend ha accettato un raccontino che gli ho mandato 15 giorni fa, disse Anna, sforzandosi di assumere l'aria noncurante di chi è abituato a vedersi accettare raccontini a ogni giro di posta, ma non riuscendo a trattenersi del tutto. Anna Shirley, che onore! Che cos'era? Quando verrà pubblicato? Te lo pagano? Sì, mi hanno mandato un assegno di $10 e il direttore scrive che vorrebbe vedere altre cose mie. Le avrà? E come? Era un vecchio raccontino che ho trovato tra i miei iscritti. L'ho riscritto e poi l'ho spedito, ma non pensavo proprio che venisse accettato. Perché non ha trama, rispose Anna, ripensando alla triste esperienza dell'espiazione di Averill. Che cosa farai di quei $10, Anna? Su, andiamo in città a ubriacarci, propose Phil. Ho intenzione di scialacquarli in biasimevoli baldorie, dichiarò Anna festosa. Ma in ogni caso non è denaro sporco, come quell'assegno che avevo ricevuto per l'orribile storia del Rehable Baking Powder. Ho speso quei soldi in maniera utile, investiti, ma li odiavo talmente che non li ho mai indossati. Pensare che abbiamo una scrittrice in carne e ossa qui, a Patty's Place, inneggiò Priscilla. È una grossa responsabilità, commentò solennemente zia Gemsina. E come se lo è? Rincarò Phil con pari solennità. Gli autori sono come piume al vento, non sai mai quando e come danno di testa. Anna potrebbe anche ficcarci nelle sue storie. Intendevo dire che scrivere per la stampa è una grande responsabilità, continuò con aria severa zia Gemsina, e spero che Anna se ne renda conto, visto che ne possiede la capacità. Mia figlia era solita scrivere storie prima di migrare verso lontani lidi, ma adesso ha rivolto i suoi interessi verso sentimenti più alti. Aveva un motto: non scrivere mai una riga di cui ti vergogneresti se venisse letto al tuo funerale. Fallo tuo, Anna, se hai intenzione di imbarcarti nella letteratura. Anche se, per essere precisi, aggiunse perplessa zia Gemsina, Elizabeth rideva sempre quando lo citava, ma rideva sempre così tanto che davvero non so come abbia fatto a diventare missionaria. Sono felice che l'abbia fatto. Ho pregato perché lo facesse, ma vorrei che non l'avesse fatto. A quel punto zia Gemsina si domandò perché le ragazze ridessero tanto. Gli occhi di Anna scintillarono per tutto il giorno. Nella sua mente le ambizioni letterarie germogliarono e sbocciarono rigogliose e l'allegria l'accompagnò fino al ricevimento all'aperto di Jenny Cooper. Nemmeno la vista di Gilbert e Christine che passeggiavano proprio davanti a lei e a Roy riuscirono a smorzare la luce delle sue luminose speranze. D'altro canto, però, non era così distaccata dalle cose terrene da non notare che il modo di camminare di Christine era decisamente sgraziato. Suppongo però che Gilbert guardi solo i suoi occhi. Gli uomini, si indispettì Anna. Pensi di essere a casa sabato pomeriggio? Domandò Roy. Sì, mia madre e le mie sorelle verranno a trovarti, dichiarò quietamente Roy. Suonò dentro Anna un campanello d'allarme e non si può dire che fosse del tutto piacevole. Non aveva mai incontrato nessuno della famiglia di Roy e capiva quindi l'importanza di quella decisione, la cui irrevocabilità sembrò raggelarla. Ne sono felice, rispose con voce piatta, domandandosi se fosse vero. Doveva esserlo, naturalmente, ma non sarebbe stata una sorta di giudizio? Le erano giunte all'orecchio le chiacchiere sul modo in cui la famiglia di Roy aveva preso l'infatuazione del rispettivo figlio e fratello. Roy doveva aver esercitato delle pressioni per questa visita. Anna sapeva che dovevano averla soppesata con il bilancino. Dal fatto che avevano acconsentito a incontrarla, capì che, volenti o nolenti, guardavano a lei come a un possibile membro del clan. Devo essere me stessa. Soltanto me stessa. Non devo cercare di fare una buona impressione, pensò Anna a disagio. Ma intanto si domandava quale abito dovesse indossare sabato e se le donassero di più i capelli rialzati secondo la nuova moda o se fosse meglio la vecchia. Insomma, il suo ricevimento all'aperto era bello rovinato. Alla fine della serata, Anna aveva deciso che per sabato avrebbe indossato l'abito di chiffon marrone, ma che avrebbe tenuto i capelli sciolti sulle spalle. Venerdì pomeriggio nessuna delle ragazze aveva lezione a Redmond. Stella colse l'opportunità per scrivere una ricerca per la Philomatic Society e sedette al tavolo d'angolo del soggiorno, circondata da strati e strati di appunti e manoscritti poggiati in disordine sul pavimento. Giurava che non avrebbe potuto scrivere una riga a meno che non avesse buttato giù tutto quello che le capitava senza rileggerlo. Anna, in una blusa di flanella con gonna di grisaglia e capelli scarmigliati dal vento, era tranquillamente seduta sul pavimento al centro della stanza e stuzzicava Sarah Kate con un agognato ossicino. Joseph e Rusty le erano entrambi acciambellati in grembo. Un profumino delizioso impregnava tutta la casa perché Priscilla stava cucinando. Proprio in quel momento era entrata in soggiorno, avvolta in un enorme grembiolone da lavoro, con un baffo di farina sul naso, per mostrare a zia Jamesina il dolce di cioccolata che aveva appena finito di glassare. In quel preciso istante squillò il campanello. Nessuno vi prestò attenzione, eccetto Phil, che saltò su e corse ad aprire aspettandosi un commesso con il cappello che aveva acquistato quella mattina. Sulla soglia c'erano invece la signora Gardner e le sue figlie. Anna balzò in piedi come poté, facendo rotolare i due gatti indignati sul pavimento, e passò meccanicamente l'osso dalla mano destra alla sinistra. Priscilla, che avrebbe dovuto attraversare la stanza per raggiungere la porta della cucina, perse la testa, ficcò ineducatamente il dolce di cioccolata sotto un cuscino del divano e accanto al camino e fuggì di sopra. Stella cominciò febbrilmente a raccogliere i propri fogli. Solo zia Jamesina e Phil conservarono il loro aspetto normale. Grazie a loro ciascuno poté sedersi a proprio agio, tranne Anna. Priscilla ridiscese senza grembiule e senza baffi, Stella rimise il suo angolo all'onor del mondo e Phil salvò la situazione con una fiumana di frasi fatte. La signora Gardner era alta, sottile e bella, vestita in maniera squisita e cordiale, di una cordialità un tantino forzata. Aline Gardner era un'edizione più giovane della madre, eccezion fatta per la cordialità. Si industriava di essere gentile, ma riusciva soltanto ad apparire altezzosa e condiscendente. Dorothy Gardner era sottile, allegra e piuttosto sbarazzina. Anna sapeva che era la sorella preferita di Roy e provò subito per lei un'ondata di simpatia. Sarebbe stata identica a Roy se, anziché furbi occhi nocciola, avessi avuto sognanti occhi neri. Grazie a lei e a Phil, l'incontro si svolse piuttosto bene, tranne che per un leggero senso di tensione nell'atmosfera e per due incidenti decisamente imbarazzanti. Rusty e Joseph, lasciati a se stessi, diedero inizio a una partita di caccia e piombarono all'impazzata sul grembo fasciato di seta della signora Gardner per uscirne poi di gran carriera. La signora Gardner inforcò con grazia il suo occhialino e lo puntò sulle loro figure volanti come se non avesse mai visto gatti prima di allora, e Anna, voltandosi contro il muro per nascondere una risatina nervosa, si scusò, come meglio poté, con inaudita contrizione. «Le piacciono i gatti?» si informò la signora Gardner con una leggera intonazione di tollerante meraviglia. Anna, nonostante il suo affetto per Rusty, non era particolarmente portata per i gatti, ma il tono della signora la indispettì. Di conseguenza le guizzò nella mente come un lampo il ricordo della moglie di John Slight, a cui piacevano talmente i gatti che accolse tutti quelli che il marito le consentì di stipare nella loro già stipatissima casa. «Sono animali adorabili, non è vero?» esclamò con voce flautata. «Io non ho mai amato i gatti», disse la signora con voce remota. «Io invece li adoro», dichiarò Dorothy. «Sono talmente carini e indipendenti. I cani sono troppo buoni e dipendenti, mi fanno sentire a disagio. Ma i gatti possiedono le migliori virtù dell'uomo? Ma qui ci sono due deliziosi cani di porcellana, posso guardarli da vicino?» disse Alina attraversando la stanza in direzione del camino, e fu così che causò il secondo incidente. Prendendo Magog, sedette sul cuscino sotto cui Priscilla aveva nascosto il dolce di cioccolata. Priscilla e Anna si scambiarono sguardi agonizzanti, ma non proferirono verbo. L'altezzosa Lynn continuò a stare seduta sul cuscino e a godersi i cani di porcellana fino al momento del congedo. Dorothy indugiò un momento a stringere la mano di Anna, sussurrandole impulsivamente: «Io so che noi due diventeremo amiche. Oh, Roy mi ha detto tutto di te. Io sono l'unica della famiglia con cui si confida, poverino. Nessuno mai potrebbe confidarsi con la mamma o con Aline. Chissà come vi divertite voi ragazze qua. Mi fate venire qualche volta a spassarmela un po' anch'io?» «Tutte le volte che vuoi», le rispose Anna di cuore, felice che una delle sorelle di Roy fosse simpatica. Aline non le sarebbe mai piaciuta, ne era certa, e lei non sarebbe mai piaciuta ad Aline, anche se fosse riuscita a conquistare la signora Gardner. A ogni modo, Anna respirò di sollievo perché il giudizio finalmente era formulato. Priscilla, alzando il cuscino, declamò con aria tragica, tra le mille frasi che la lingua ha mai pronunciato, la più triste e senz'altro poteva essere, ma non è stato. «Questo dolce è quel che si dice un dolce piatto», continuò. «E come ognuno sa, un dolce piatto è un dolce non riuscito. E il cuscino poi è un disastro. Nessuno potrà mai farmi credere che il venerdì non porti male. La gente che dice di arrivare di sabato non dovrebbe arrivare di venerdì», disse zia Jamesina. «Io penso che sia colpa di Roy», congetturò Phil. «Quel ragazzo non è del tutto responsabile di quel che dice quando parla con Anna. Dov'è Anna?» Anna era salita di sopra. Aveva stranamente voglia di piangere e invece si mise a ridere. Rusty e Joseph erano stati davvero grandi e Dorothy era un amore.